Accidenti! Haru, ma ti sei alzata? Mi sono alzata adesso! Bene. Buongiorno. Ma dimmi tu. Puntarla soltanto la sveglia è inutile, è inutile. Io vado. Non mangi, ma è delizioso. Troppo delizioso. Sei spregevole. A più tardi. Patria crollata, restano monti e fiumi. Nel castello a primavera prospera la vegetazione. Al sentire del giorno anche i fiori versano lacrime e il rimpianto dell'addio vessa l'animo anche degli uccelli. Yoshioka, se hai tempo per muoverti quatta quatta, sbrigati ad andare al posto. Sì! Acci, acci. Uffa, non ne posso più. Col che ho fatto tardi e sono stata svergognata davanti a tutti. Mi ha deriso persino Machida. Se la rideva, eh? Ma perché? Si può sapere che avrò di sbagliato? Questo qua ormai deve essere un qualche presagio. Da qui innanzi cominceranno cose ancora più terrificanti. Si dà conforto di Norma. Ma un gatto mai veduto? Comunque, Machida ti garba così tanto? Il fatto è che, vedi, è un tosto! E per la dichiarazione? È che a quanto pare ha già la ragazza. Una del primo anno, vero? Pare sia una bellezza. Vuoi dire che lo sapevi? Significa che penso che quando verrai respinta ti darò conforto! Ma tu che donna sei? Però di per me penso che sia Tsuge-chan ad essere più tosto, sai? Tu, allora, muoviti a farti respingere! Portava qualcosa in bocca, eh? Un ladro? Chissà. Ma che sta combinando? Ehi, gatto! È pericoloso! Oh. Beh, che importa? Tanto è un gatto. Senti, non è che si mette male. Eh? Ci credo, ma che sto facendo? Ah, un momento, Haru! Ce l'ha fatta, fantastica, Haru! Bene. Accipicchia, per avermi salvato in un frangente di pericolo vi porgo sincera gratitudine. Quanto a voi avete riportato ferite? Benché ritenga che sia scortese, poiché al momento mi trovo di fretta, rimando i ringraziamenti a un'altra volta. Ma si figuri? Ah! Haru! Ah, guarda che hai combinato. Beh, non è che avrebbe potuto valere la vita di un gatto. Hai visto? Adesso Eh? Il gatto ha fatto l'inchino. Haru, hai battuto qualcosa? Sono a casa. Laggiù, non calpestare. Scusami. Non so decidermi tra i disegni. Perdonami, ma prepareresti il pasto? Senti, mamma. Mm? Ma i gatti sanno parlare. E chi lo sa? Eh? A pensarci lo dicevi anche in passato. Eh? Quando eri piccina così. Io, sai, riesco a parlare con i gatti, dicevi. Dici davvero? Sì, davvero. L'hai dimenticato? Capisco. Hai il pancino vuoto. Il pesce ti piace? Capisco, capisco. Mangia allora. Sporcarsi così tanto. Sono deliziosi? Capisco, capisco. Vuoi mangiarne altri? Bene, bene, mangiali tutti quanti. Ma che ringraziamenti! Haru! Ah! Mamma! Che stavi facendo? Stavo parlando con un gatto! E allora, sai, ti ho chiesto di che cosa stessi parlando con il gatto, no? A quel punto mi hai fatto... Diceva che vivere a questo mondo è duro. E siccome a dirlo eri tu, io mi sono stranita. C'era stato anche un periodo simile. Ad ogni modo, domani mi alzerò per bene e uscirò dopo aver fatto colazione. Qua giù, qua giù. Ancora un po' più vicina. Procedo ad annunziarlo. Il qui presente è colui che governa il nostro paese dei gatti, il re dei re dei gatti. Trattasi dell'eccelso re gatto. È in soggezione. Colui che Vostra Eccellenza si è quest'oggi prodigata a salvare corrisponde all'Eccelso Lun, l'erede dell'Eccelso Regatto. Stante la fin troppa rilevanza del fatto, in questa occasione l'Eccelso Regatto è venuto a ringraziarvi di persona. Oh. Ti ringrazio, eh? Oh! Si tratta di una lista. A partire da domani vi saranno molte fortune che faranno visita a Vostra Eccellenza. Grazie. Ci vediamo. Tutto un sogno? E insomma, davvero non sei stata tu, Haru? Non ne so niente davvero, ti dico. Ma allora, chi l'ha fatto questo? Haru! Haru! Presto vieni! Si può sapere che è successo qua? Ma è erba stuzzica, gatti! Oh, mi sa che ho ceduto col lavoro, oggi me ne sto a letto. Non ci credo! Ma perché? Haru, è questa la stecca del fattaccio! Buongiorno e chiedo scusa, vado avanti, eh! Che sta succedendo? Avrò dell'erba gatta o simili con sé. Erba gatta? E perché? Ah, boh. Ma insomma, Yoshioka, non puoi portare con te dei gatti! Mi vengono dietro di testa loro! Si può sapere che succede? Di un sogno, e infatti deve essere tutta opera di quei gatti. Significa che avrei fatto meglio a non salvarlo, un gatto. Ma che... Haru? Ah, che c'è? L'odore di erba gatta è andato via. Ah, pare tutto bene, e anche i gatti non mi vengono più appresso. Capisco, meno male allora. Ecco, sai, avrei un favore da chiederti. Non è che mi sostituiresti per il turno di pulizie di oggi? Tsuge-chan ha una partita e se non vado a vederla subito non farò in tempo. Ti prego. Va bene. Il turno di pulizie, eh? Ti ringrazio, Haru! Tsuge-chan, fight! E vai! Evviva, Tsuge-chan, che tosto! Attenzione. Ti ringrazio. Oh, ma che male, uffa! Oh, cavolo! L'ho combinata grossa, uffa! Accidenti! Ma si può sapere io che sto facendo qui? Eccola, eccola! E c'è Saharu! E c'è Saharu! Siete voi altri, vero, che da stamane ne fate proprio di tutti i colori? Sì, vogliate rallegrarvene? Per niente! Miau? E questo perché miai? È un grande progetto sul nostro intero paese! È il nostro proposito di ringraziamento di massimo livello! Ma anche dicendo questa cosa, io non mangio mica i topi! E neppure posso gradire l'erba stuzzica gatti o l'erba gatta! Le cose stavano così? Che estremo sgarbo vi abbiamo usato! Certo, però c'è un errore di valutazione, miau! Come si potrà informarne l'eccelso regatto? Scusami, ma te la sei presa male? Ho esagerato, ti chiedo scusa! In verità è che anche a me negli ultimi tempi ne sono capitate di tutti i colori, sai? Di tutti i colori sarebbe a dire? Se dico di tutti i colori, intendo proprio di tutti i colori. Ah, giustamente, quindi è così. Anche una bella donna come voi, eccelsa Haru, ha dei tormenti, non è vero? Eh? Ma dai, non è niente di che! Eh no, lo è come! Giunti a questo punto, ci impuntiamo anche noi. Non mancheremo in nessun caso di soddisfarvi, eccelsa Haru. Ma c'è ancora qualcosa? Certo! Vogliate in qualsiasi caso recarvi nel paese dei gatti da noi abitato, per favore? Il paese dei gatti? È un bel posto, eh? La natura è rigogliosa e anche il cibo è delizioso. Il paese per intero vi darebbe il suo benvenuto, eccelsa Haru. E inoltre, l'eccelso re gatto proclama di volervi accogliere come sovrana consorte dell'eccelso Lun, suo erede che ieri vi siete data a salvare, eccelsa Haru miau. Ma non ci credo, d'accordo le lusinghe, ma una cosa simile ha senso? Che poi l'eccelso principe non è un gatto? Ma che cosa dite, miai? Per quanto sia un gatto, il principe Lun non è forse un tosto? Eh? È un tosto? Eh già. Anche il paese dei gatti potrebbe andar bene, chissà. Si starà a poltrire per tutto il giorno, vero? Ma certamente! Potrebbe essere un paradiso. Riempirsi la pancia di delizie e poi farsi un pisolino, scordandosi di tutte le cose spiacevoli, sai? Ah, però andare in sposa a un gatto è eccessivo. Fosse anche con l'eccelso principe, questo... Ma che... Dunque allora verremo a prendervi stasera? Che significa? Ma che vuoi dire? Un momento, aspetta! Che botta! Ma che... Aspetta un momento. E quindi, ecco, dunque, insomma... Che cosa faccio? Se è per quei gatti lo faranno di certo! Io sarò portata nel paese dei gatti e finirò per diventare la sposa di un gatto! Non voglio assolutamente! Haru-chan! Chi è? Haru-chan! L'ufficio del gatto. Cerca l'ufficio del gatto. No, mi sbaglio. Ma chi sei? Chi sei mai? E cos'è questo ufficio del gatto? Ti aiuteranno di certo. Al crocicchio, un grosso gatto bianco te ne indicherà il luogo. Un grosso gatto bianco? Haru-chan, va al crocicchio e cerca l'ufficio del gatto. L'ufficio del gatto non l'ho mai sentito, però. Aveva detto un grosso gatto bianco, no? Però, dato che aveva una bella voce, dovrà trattarsi di un bel gatto bianco. Però mi sono sfiancata. Faccio una pausetta. Questo gatto mucca, perché si trova in un posto del genere? Un grosso gatto bianco. Non può essere. Senti, tu, non è che conosci l'ufficio del gatto? Avrei bisogno d'aiuto. Sbagliato persona. No, anzi, sbagliato gatto, eh? Scusa tanto se mi sono seduta. Vienimi dietro. E infatti! Un momento, aspetta! Cammina per bene in strada, dai! Certo che sei cattivo! Ma è perché ti ho dato della mucca? Non so, ma che posto misterioso. Senti, è l'ufficio del gatto? Ascolti, io mi trovo nei guai. Mi sa che verrò portata nel paese dei gatti. Non può essere. Sarà qui. Baron, è il tuo turno. E vedi di venire fuori senza aria da spocchioso. Benvenuta all'ufficio del gatto. Oh. Ma che tosto! Questo qua è un posto solo un po' distorto rispetto ai luoghi che abitate voi. È il mondo delle cose che racchiudono un animo. Le persone racchiudono pensieri e desideri in ciò che si crea infondendovi cose simili senza accorgersene dimora un animo. Come in me e come in lui, vedi? Lui è Toto, un gargoyle che racchiude un animo. Ma che rarità, barone. Hai una cliente? Più o meno. È una cliente graziosa, no? Barone, ha detto? Il barone Humbert von Sickingen. La persona che mi ha creato mi ha battezzato a questo modo. E per questo, barone? Mi sono permesso di ascoltare il tuo discorso. Hai quelli del paese dei gatti che ti stanno alle calcagna, non è vero? Ah, Sì, è proprio così. Ho salvato un gatto che stava per essere investito da una macchina e poi così mi hanno detto che ero invitata per una ricompensa. Ricompensa? Sì, ma dimmi tu, una signorina dal cuore d'oro. Quelli lì sono gente da lasciar perdere. Sei sempre la solita linguaccia, Muta. Pare tu non capisca la gentilezza di questa ragazza che ha salvato un gatto. Però grazie a questo ora si ritrova nei guai, giusto? Non è il caso di stare a impicciarsi. Questa ragazza dov'è che l'hai incontrata? Al Crocicchio, ma sapeva di questo posto da principio. Ecco, è che avevo sentito una voce, anche se non ho capito di chi fosse. Una voce? E hai creduto a una voce che non capivi di chi fosse? Anche per un cuore d'oro ce l'ho... Che diamine fai? Farò tacere quella bocca che non sai trattenere. Non intrometterti! Un momento, non fate i violenti, per causa mia! E tu sei, invero? Haru, sono Haru. Capisco, Haru. Prego, vieni dentro. Di loro puoi anche non curarti. Guarda dall'alto in basso. Bastardo lucido da scarpe! Lucido da scarpe va benone, i corvi sono neri. Ehi, ehi, si è fatto buio e non ti si vede. Sempre meglio che dare indecorosamente nell'occhio come un voci, cotoletta d'un gatto mucca. E tu staresti bene come stuzzichino, bastardo letta di pollo. Taci, mucca salvistrata, nerino del buio. Con permesso... Wow, che posto stupendo! Su, entra. Siediti là intorno. Sì. Per il tè, limone, latte? Con latte. Oh, come mi piace questo stile. Prego. Grazie. Che graziosa. Si tratta della mia miscela speciale. Ma dato che il suo sapore cambia ogni volta, non posso darne garanzia. Delizioso! Questo qui è davvero delizioso! Hai la sorte dalla tua. Ma come fai a bere della roba tanto aspra? La tua lingua da gatto non regge, mio caro. E tu, con la cecità notturna? Muta, stavo pensando che una volta avevo già sentito parlare da te del paese dei gatti. Quello là è tutto un inganno. È un posto in cui va chi non riesce a vivere il proprio tempo. Il proprio tempo? Ecco, una servitrice dell'Eccelso Regatto diceva che vogliono fare di me tipo la sposa dell'Eccelso Principe. E non ti andrebbe bene una cosa così? Ma come? Magari ti divertiresti alla grande. Senza alcun ritegno. Sarebbe pur sempre un'esperienza. Giustamente. In verità anch'io volevo provare ad andare per una volta nel paese dei gatti. Potrebbe essere l'occasione buona. Degno di te, barone. Io invece declinerò. Ci verrai anche tu. Ma no, per quel posto sono proprio negato. Non può essere. Ti porteresti insieme anche questa ragazza. Ovviamente questo non sarebbe saggio. Detto il che, anche lasciarla da sola non avrebbe senso. Piantala, piantala! A far da balia a una ragazzetta sono ancora più negato. Hai da fare? Ho solo tempo libero. Ecco, io ritornerò a casa. Io sto arrecando disturbo a tutti voi come una stupida. In origine la colpa è mia che mi sono impicciata. In qualche modo dovrò cavarmela da me. Capisco. Ebbene, perdonaci se non riusciamo ad esserti di supporto. Tu! Sì, sì, ho capito! Ma baderò soltanto alla casa. E bravo, Mut. Bene, è deciso. Haru, torna indietro qua giù, dai. Però... Ma no, Muta ne dice di tutti i colori, ma nel profondo è un tipo che proprio non è malaccio. Capisco. In realtà è una brava persona. Esattamente così. Ah, e ditela come diamine vi pare. Le sono molto obbligata, signor Mucca. Muk? Mu? Tu ora ti sei sbagliata apposta, no? Le chiedo scusa, non l'ho fatto apposta. Quella ragazza ci sa fare un bel po'. E infatti rifiuto! Ah già, se non sbaglio, dentro alla credenza dovrebbe esserci una deliziosa chiffon cake. E dov'è che sta? Sul lato destro, in alto. Potevi dirlo prima. Affettiamola e diamoci a un party in allegria. Bene, io vado a prendere le bacche di gelso che tengo in serbo. Non capisco bene, ma sembra si stia facendo spassoso. Contribuisco anch'io in qualcosa. Contribuisci pure, Haru. Ma rifletti su cosa puoi fare per riuscire a vivere saldamente il tuo proprio tempo. Perché fin tanto che saprai fare ciò, non avrai nulla da temere. Baron, da una mano, che mettiamo la panna! Con tutti i crismi, eh? Ma è naturale, no? Forse potrei scoprire un qualcosa di stupendo. Sì? Sarà il signor Toto? Eccelsa, Haru, siamo venuti a prendervi, miau! Sono apparsi! No, no, non voglio! Ma cosa... Un momento! Non ci voleva. Un momento! No! Ma se dicevate del prendervi cura di me! Baron, dei gatti si stanno avventando qui in massa! Ma che... Dai, davvero la cecità notturna! Inseguiamoli! E c'è Saharu, vi stavamo cercando. Ritorno a casa. Miau. Ah, è pericoloso, miau. Oh. Fammi scendere e ritornare a casa. Torniamo indietro ora e subito. Un caso di quel che si chiama ansia prenuziale, miau? Ti sbagli! Ha finito per diventare una seccatura. Ahia! Ma insomma, infame, mi fai male, no? Lasciami! Il signor Muta è in più, Baron! Ma insomma, io ti ho detto di lasciarmi! Toto, adesso! Ehi, va! Non mi lasciare! Ma perché vi siete scansati? Era assurdo, miau! Maledetti! Evviva! Il peso è eccessivo, miau! Toto! Sì, lo so! Hanno bucerato. Prendi quota. Ho capito. Che si fa? Il vento. Seguiamo quella luce. Ho capito. Sei tu che ti sei rimpicciolita. E perché? Perché alla fine ci sei venuta. Questo è il paese dei gatti. Eccoci qui. Fantastico. È davvero abitato da gatti. Beh, ma vedi, d'altro canto è il paese dei gatti. Ehi, ehi! Era da tanto tempo che non mi sentivo Dai, così. Senti, cerchiamo l'uscita e torniamocene a casa alla veloce. Ancora un pochino. Senti tu! Ma il fatto è che è così piacevole. Non devi. Sbrigati a tornare a casa. Eh? Sbrigati a scappare da qui, per favore. Oh, che bel gatto. E infatti il paese dei gatti è differente. Non è il momento di parlare spensierati. Haru-chan, tu non ti dovresti trovare qui. Ma come fai a conoscere il mio nome? Eccelsa Haru! Ah, di nuovo quel gatto. Ai ai, meno male che vi ho trovata! Quando siamo entrati da questa parte, pare vi abbiamo fatta cadere a causa dell'eccessivo peso del vostro eccesso servitore Miao. Sì, servitore hai detto? Ah, ma ti sbagli, è il signor Muta. Ah, capisco. Su, su, già che i preparativi per la vostra accoglienza sono stati disposti, prego anche voi eccesso Mucca. Muck? Però io, vedi... Anche l'eccelso re gatto vi attende al castello. Castello, dici? Il castello, vedete? È quello. Ah, è quello? Già, già. Ehi, ma mica avrai intenzione di andarci? Tornando a casa senza neanche salutare, saremo forse scortesi verso l'eccelso re. Ehi, tu, vedi di darti una regolata. Su, su. Aspetta un attimo. Non può venire con noi anche quella piccola? E tu saresti? Sì, io mi chiamo Yuki la cameriera. Giustamente. Sei una persona a servizio al castello. E c'è Saharu, con questa persona vi incontrerete dopo Miao. Su, su. Capisco. Allora, a dopo, eh? Ehi! Haru-chan. Ma cos'è quello? È disgustoso! È giunta la mia graziosa figliola! Bene, andrò a vederla direttamente, Miao! Mi sembra di averla vista da qualche parte. Prima di incontrare l'eccelso re gatto, cambiamo abbigliamento. Un cambio di vestiti? Voi, no. Signore, da quella parte. E perché solo io? Pervertito. Pervertito che vuol dire? Da quella parte sono stati approntati dolciumi e altro miao. Ah, sì? Forse è bello. Ma per davvero, vi dona proprio. Il principe Luna è l'oggetto delle passioni di ogni gatta. Saprà rendervi di certo felice Miao. Voi dite. Ah, ma sbagliate, sbagliate. A questo proposito ci sarebbe... Oh là là, sei splendida. Sei veramente degna di essere la sovrana consorte di Lun Miao. Natoru, quella persona chi è? Un servitore, l'eccelso Mucca. Mucca? Un nome mai sentito. Nulla per cui intimorirsi. Appunto, io sono spiacente, però la storia del matrimonio è un pochino... Ma che? Non ci avevi già dato l'ok, Miao? È in tal maniera che avevo sentito. L'eccelso principe dov'è? In questi istanti è in provincia, a cena con la Confagricoltura. In ogni caso, lui ancora neanche lo conosco bene e innanzitutto l'eccelso principe è un gatto, giusto? Io un gatto non posso mica diventarlo. Se è per questo, non preoccupatevi. Lo sei già diventata, Miao? Eh? Oh. Ma che? Oh. Su, su, su, su, su, su. Oh. Fantastico! È una cosa vera! Un gatto! Signor Muta! Che è successo? Proclamando di voler mangiare tanta gelatina di erba gatta da farci il bagno, è finito in tale stato. Non può essere! Non c'era bisogno di morire in una maniera simile! Stupido, stupido, stupido, signor Muta! Ecco, i preparativi per il banchetto... Non voglio! Non voglio separarmene! Dunque, andate insieme! Quella è l'eccelsa Haru! Che orecchie magnifiche! E che cuscinetti rotondetti! Avendo appreso che detestate i topi, ecco un pesce aurora pescato e fresco fresco, miau! Madame Gella Haru pare annoiata, miau. Sì. Oh, mio, non puoi fare qualcosa? Dunque i soliti noti. Qualcosa di più spassoso! Sì. E mia! Ma... Prossimo! Mia, non c'è qualcosa di meglio, mia! Mi darò a mostrarvi che saprò rallegrare io l'eccelsa Haru. Cosa facciamo? Beh, non va bene, miau. Signorina, danzate con me un brano. Ma io non so ballare alcuna danza, mia. Oh no, sto già passando al gattese. Affidatevi a me. L'impressione non è niente male, miau. Ma che sarà questa sensazione? Non mi ero mai sentita così. Di questo passo forse mi andrebbe bene anche diventare un gatto. Non devi, Haru. Non smarrire te stessa. Tu devi vivere il tuo proprio tempo. Te l'avevo già detto anche prima, no? Ma tu sei... Che la musica ci fermi! Tizio sospetto che agisci 4-4. Tu, dannato, si può sapere chi sei? Questo mio tardare a presentarmi è stato scortese. Ma non sono affatto una persona sospetta. Ebbene, io sono Humbert von Sickingen. Sono venuto a prendere Haru. Baron! Dire una cosa simile! Si può fare, Miao. E come si potrebbe, Miao? Catturatelo! Sono pieno. Ah! Un fantasma! Evviva! Il signor Muta è vivo! Molto male? Aspettate, razza di facinorosi! Presto! Portate Sua Maestà in un posto sicuro! Non lasciatemi fuggire! È pericoloso! Avanti! Nobili da questa parte, prego! Di qua, avanti! Ma guarda che io non c'entro niente! Da questa parte! Tu sei quella di prima! Signor Baron, ho pensato che sareste di certo venuto a salvarla. Ma come fate a conoscermi? Perché avevo sentito delle voci sull'ufficio del gatto. Scusami tanto per prima. Se avessi dato ascolto a quello che dicevi, non avrei cose simili. Va tutto bene. Se riuscirai a lasciare questo paese entro l'alba, potrai ancora tornare com'eri. Davvero? È un condotto che collega con l'esterno. Questo torna comodo. Però il signor Muta... Se ne va di là. Per lui andrà tutto bene. Haru, in fretta. Il retro del castello. La cima di quella torre è collegata con l'esterno. Wow, com'è alta! Ma non c'è altro modo che attraversare le rovine alle sue pendici e andare a scalarla. Dovremmo cavarcela. Meno male. Signor Baron, vi raccomando Haru-chan. Aspetta! Se n'è andata via e non l'avevo ancora neanche ringraziata. Haru, questa è rigorosamente una mia congettura, ma ad averti indicato la via per il mio ufficio non sarà stata quella piccola. Haru-chan, l'ufficio del gatto. Ma certo, era quella bella voce, non ci sono dubbi. Però perché? Ma dico, per colpa tua me ne toccano di impensabili. A ogni modo, adesso affrettiamoci. E ascoltate quello che dico. Sono entrati, Miao? Sì, sembra che siano entrati. Bene. Nel fossato labirintico che è l'orgoglio del nostro paese. Mi godrò la vista dall'alto, Miao. Proprio un incomodo. Però è ancora giorno. Guarda che qui è sempre giorno. Ma davvero? Probabilmente a quest'ora all'esterno è notte fonda. Ma come? Devo fare in fretta. Ecco, ecco... Dov'è che si va? Si sono persi, Miao. Potrebbero mai avanzare così facilmente? Vero, maestà? Abbiamo mia argine. Il dispiegamento di truppe? Laggiù. Andiamo da questa parte. Non ci resta altro che scartare le strade una per una. Guarderemo incessantemente la torre. Si eviterà di smarrire l'orientamento. Capisco. Signor Muta, non vale! Non è il caso di perdersi per fare gli onesti! Eccolo! Ma perché va a finire così? Mentre Muta fa da esca, noi affrettiamoci. Non sono un'esca! Sta indietro, Haru! Che forza! Si è piegato? No, anche se avrei voluto rimpiazzarlo a breve. Tieni le cose proprio da conto! No, è stato colpito. Cosa, miau? Eccelso Regatto, questo è fin troppo. Occultiamo. Cultura a parte, eccelso Natori. Eh? Non so, ma sono sparpagliati. Si sono persi tutti, miau. E Haru-chan? Si trova laggiù. Oi! Bentornato. Da quella parte? È un vicolo cieco. Ci sono vari modi e maniere, miau. Di nuovo un vicolo cieco. La cosa si è fatta difficile, eh? Sì. Ma è strano, prima in questo punto non c'era il muro. Non può mica essere, no? Ma è vero, prima da qui ci siamo passati. E dici che ai muri sono spuntate pure le gambe? Ma questo qua non è un muro, è di cartapesta! Ben fatto, Haru. Ma funziona così di norma. Ma no! E gliel'avevo detto di non mettersi in filata al punto, miau. Riusciranno a scappare? C'è il suo legato, aspettate! Andate avanti, che vi raggiungo subito. Che roba pomposa! Non importa, Baron! Affidati a me! Eccesso Regatto, è rischioso! Fermatevi, per favore! E dovrebbe andare così! Nel dubbio che mai accadesse una cosa simile, avevo nascosto delle truppe nella torre! E allora va bene! Bene, bene! Oh! L'edificazione della torre è scarsina. E allora va male, miau! Giunti a questo punto, l'ultima risorsa! Non può essere! Solo quello non dovete farlo! Se lo fate, il vostro tasso di gradimento calerà parimenti! Pulsante! Non ce l'abbiamo! Una cosa simile qua giù! Ecco, è cordless! Evviva! Abbiamo raggiunto un posto ampio! Ancora un piccolo sforzo. Ora è il momento! Che succede? Reggiti! È stato spettacolare, miau! Andiamo! Si è proprio abbassata, eh? Per un po' stiamo ad osservare come va. inevitabile. Ehi, presto, presto, venite! Presto, venite! Caro Sikingen, sono contento di poterti rincontrare, Miao! Haru-chan, aspettami che ti riportiamo subito al castello, Miao! Anche essere un gatto non è male, eh? Però dovrei farmi piacere i topi, vero? Ehi, per rassegnarsi parrebbe che sia ancora presto. Oh, ma si può sapere cos'è quest'indicibile circostanza? Padre mio! Eh? Loon! Ma eri già rientrato, Miao? È Sua Altezza il Principe Ereditario, ricomporsi! L'Eccelso Principe! Avvertito da Yuki-chan, ho tentato di rientrare in tutta fretta, ma... Si può sapere cos'è questo scompiglio? Haru-chan! Ci rincontriamo! Meno male, ho fatto in tempo. No, beh, si tratta di modesti ringraziamenti, Miao. Ma suppongo che anche tu sarai contento che ti venga in sposa una piccola come Haru-chan, dico, miau. Una simile premura è superflua. Io mi sposerò con la qui presente Yuki-chan. Eh? Bugia! Pare un discorso inatteso. Ci sa fare l'Eccelso Principe. Yuki-chan, ecco a te. Ero andato a cercarli nella tua terra natia. Non può essere. Che nostalgia. Ma quelli sono i biscotti che mi piacevano in passato. Proprio così. Quelli che tu, Haru-chan, desti da mangiare a me che ero un'orfana, quei pesci biscotto. Capisco. Tu sei la gattina di quella volta. Siccome sei diventata fin troppo bella, non me ne ero accorta. Yuki-chan, in celebrazione della nostra vita che comincia da qui in avanti, accetta di ricevere questi biscotti. Il che vuol dire? Significa che voi due vi sposerete! Fantastico, fantastico, Yuki-chan! Congratulazioni! Ti ringrazio, Haru-chan. Io, se non avessi incontrato te, Haru-chan, forse sarei potuta stramazzare per i morsi della fame. E anche me. Vi siete data ad aiutarmi in un frangente di pericolo. Ma pensare che voi foste la signorina Haru di cui avevo sempre sentito parlare. Voi siete la benefattrice della nostra coppia. Quale ringraziamento andrebbe mai bene? Non serve alcun ringraziamento, anzi, è che sono contenta anche io! E infatti è stato un bene aver salvato dei gatti! Ma quanto può essere commovente! Capisco, tu avevi già scelto la persona per te! Non c'è niente da fare, Miao! Il problema è che Haru-chan si sentirà sicuramente sola, Miao! Nulla di che! Miao, miao, miao, miao! Se col mio rampollo non va, perché non diventi la mia regina, Miao? Siano biscotti, siano pesci, ti farò mangiare qualsiasi cosa ti piaccia, Miao. Beh? Piuttosto che cose del genere, fammi tornare al mio aspetto originale. Questo dipende dalla tua risposta. Non parli che per la tua convenienza! Ma non esiste proprio che io diventi la tua regina, no, razza di gatto maniaco! Ehi, che è successo? Mi garba, questa tipa è proprio una sagoma. Ma è naturale. È che a me piacciono le femmine che sono chiare. Per te potrei rimboccarmi le maniche e dare manforte, no? Il sottoscritto, l'eccelso Rinaldo Moon. Rinaldo? Rinaldo Moon? Ma quello è Rinaldo Moon? Mi sono ricordato! Cosa? Avete scordato, eccelso regatto? Quell'incidente, il maggiore e peggiore nella storia di questo paese! Colui che si dice giunse bel bello da chissà dove per divorare tutto il pesce del lago e poi fuggire! Il leggendario supercriminale Rinaldo Moon! Terrificante! Che razza di tipo! E tu hai fatto cose del genere, che idiozia! Stavolta vi inghiottirò con tutto il castello! Presto, portate Sua Maestà in un posto sicuro! Non voglio via! Proteggete la signorina Haru! Signor sì! Plutone, avanti! Oh, mi maledetti! Eccesso regatto! Di mio padre lasciate che me ne occupi io. Voi tutti sbrigatevi a fuggire, per favore. Tuttavia la torre è sprofondata. Va tutto bene. Il passaggio è ancora collegato. Che mistero. Non ci voleva, è l'alba. Lasciate fare a me! Cosa? Non può essere! Non mi lanciare! Bene! Haru, corri, veniamo subito! Abbiate cura di voi! Ti ringrazio, Yuki-chan. Io non mi ero sbagliata proprio per nulla. Sia il salvare un gatto, sia il soffrire perdendomi. Era tutto quanto nel mio proprio prezioso tempo. Ah! Tu va avanti. Perdono. È mio padre. Si trova lì. Padre mio, è rischioso. Scendete, per favore. Quale assurdità. Lo riporterò indietro io. Singolar tensione mia! Quel che auspicavo! Barone, ti rimetto Haru. Bene. Tensione risolta, Regatto. Che rabbia! Avevo sentito delle voci su un pupazzo di gatto in piccione, ma che poi tu fossi tanto abile, miau. Chiedendo, pareva che la tua vita fosse solo stare in piedi in un vicolo chissà dove. Avresti fatto meglio a venire in questo paese e diventare un miau compagno. Spiacente, ma anche una vita in ristrettezze mi va, genio, sai? Dove sono? Cosa hai fatto? Non ho fatto niente, miau. Se la torre crolla di così tanto, non c'è mistero che anche l'uscita si sposti chissà dove. Chiedo venia. Eccelsa Haru! Sarò stato incauto. Però guardate, Haru-chan torna al suo aspetto originale. Che noi forse siamo tosti! Ah! salvi! Ehi là, Muta! Com'è la sensazione di farsi salvare dagli uccelli? Signor Toto! Ma come, il bastardo lucido da scarpe? Ci hai salvati, Toto! Radunare i miei compagni sulla città è stata la soluzione. Non gli farò male a camminargli sopra. Ma sei leggera, Haru, tutto a posto. Ah, sì? Ma quando mai? Guarda, Haru! È la scuola! Sono a casa, io sono riuscita a tornare a casa! Voi tutti, vi ringrazio! Evviva! Ce l'hanno fatta! Evviva! Per fortuna! Haru-chan, abbi cura di te! Eccelso Regatto! Natori, io ormai me ne vado in pensione, miau. Dunque, lo farò anch'io insieme a voi. Signor Toto, ti ringrazio. Ho ancora il batticuore. È comprensibile. Anche se un pochino mi sono divertita, però. Vai proprio alla grande. Or dunque, per Haru ci sarebbe anche la scuola. Faresti bene a tornare a casa alla svelta e riposare un pochino. Proprio così. Ma per caso è un addio? C'è dell'altro lavoro da fare. Ehi, Baron. Io forse potrei avere finito per essermi innamorata di te. E di questo tuo candore, Haru, anche io mi sono innamorato. Se mai sarà il caso che tu avessi davvero bisogno di noi, Haru, di certo la porta dell'ufficio del gatto si schiuderà di nuovo. Sino a quel momento, sarà un breve addio! Arrivederci. Vi ringrazio! Baron, signor Toto e anche te, signor Muta! Ma come sarebbe anche? Ma come anche? Devo alzarmi. Buongiorno. Ma che ti è preso così presto? Guarda che oggi è domenica. Vado al cinema con i Romy, ma è affollato e andiamo in anticipo. Bene. Ho preparato uova in salata, eh? Eh? Ma io ormai ho già finito. C'è anche del tè nel bricco. Quello, sai, è la miscela speciale di Haru-chan. Ma dato che ogni volta cambia lievemente, non posso garantirne il sapore, eh? Ah, capisco. Ehi, ma che buon profumo. Haru, ci sono novità per di più da Fonte Sicura. Ma che fanfara! Dicono si sia lasciato quel Machida! Eh? Quindi è così. Ma che... cos'è quella reazione? Cosa c'è? Ma non hai qualcos'altro in più da dire? Nulla di che. È abbastanza così. Haru, ma è successo qualcosa? Proprio nulla. Bugia? Ma è vero, ti dico! Piuttosto, tu, Hiromi? Cosa? Con Suge com'è che va? No, niente di particolare. Sei sospetta? Ma no, non sono sospetta. Ma che? Kimi to chikatta.